齿音 T T D D Tavolo Tavolo Telefono Telefono Dado Dado Dito Dito 练习 Tatto Tatto Dardo Dardo Loto Loto Modo Modo Tetto Tetto Detto Detto Tono Tono Dono Dono Topo Topo Dopo Dopo Tiro Tiro Diva Diva Tubo Tupo Duro Duro Il tetto è alto. Aldo non è alto. Il pane è tutto duro. La pera è molto buona. Prendi la strada subito dopo. Mio fratello ha 8 anni. 谚语 Proverbi. Parola detta e sasso tirato non torna indietro. O presto o tardi, la verità si scopre.